Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà, domani. Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Oggi c'ho in testa te, non so perché. Domani chissà, perciò se ti va, senti qua. I ricordi sono in fila e non mi mollano. Ad uno salgono e mi tormentano. Sono in para, noia dura, dolce tortura, paura, come quella sera. Indeciso sul baciarti o meno, a parlare sul divano ore. La prima volta che assaggiavo il tuo sapore e già ne ero strettamente dipendente. Cotto immediatamente ed era tipo che ci importa di domani. Stringimi le mani, ma i baci non risolvono i problemi. E ora non ci sei, domani è già arrivato e brucia dentro, sai, anche se ero preparato. E cadono parole come pioggia sulla strada. Forse verrà domani il sole che le asciuga. Non so dove mi porterà questa marea. Al largo arriva con un'idea. Se con qualcuno o se con te. Non so domani neanche se sarò con me. Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà, domani. E tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. L'autostrada scivola veloce, sto mangiando quel gelato che ti piace, che ti fa ingrassare tutte le menate. Quante volte le ho sentite, mi gira in testa ancora la tua voce. Dolce musica, pure quando isterica, quasi psichedelica, senza dubbio erotica. E pensa quanto spesso son finito nel tuo letto a smaltire quel gelato, a restare impigliato nei tuoi capelli con il mio orecchino, a fare casino. Per farmi stare zitto mi schiacciavi sulla bocca il tuo cuscino. Fumare sigarette, raccontarti barzellette fino al mattino. E mi divertivo quando mi correggevi se sbagliavo un congiuntivo. E come ti incazzavi quando t'abbracciavo. E non m'ero tolto l'orologio e ti graffiavo. 100 volte buonanotte, non dormivo, ti fissavo, poi mi muovevo e ti svegliavo. E lasciami dormire a lei, ti prego. Ed eri così bella che non ci credevo. Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. Ma se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà, domani. Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Forse domani un nuovo vento la mia passione soffierà via. Da domani quale fuoco ecciterà i peccati miei, domani. Perché domani non ci sei, perché domani non c'è noi, perché domani c'è solo domani, domani, domani, yeah. E ancora cambio umore se ti penso, è un bel po' che non ti sento, ma non mi frega cosa stai facendo dentro. Un'immagine di te che non parla, l'ho fatta per guardarla e non voglio rovinarla. E tengo solo il buono come il tuo profumo che mi ha sballato più di ogni cosa abbia bevuto o fumato. E mai nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso quando esplode all'improvviso sul tuo viso. Lascia stare, domani avrò un altro posto dove andare e un'altra rima da inventare. E neanche so dove saranno i miei pensieri, forse sarai solo una luce che illumina il mio ieri. Ma ancora rido se penso ai soprannomi che mi hai dato, li sapesse anche un mio amico, sarei rovinato. Non credi, sono ancora in piedi e lontano che non mi vedi, ma oggi tu sei la mia musa, baby. Fata benedetta e strega maledetta insieme, faccio di te le rime mentre domani viene. La notte muore, schiaccio l'acceleratore, oggi sarà un giorno senza te, domani pure. Ma se domani